L'altar di son dai Sant'Angel. Oh, la calaverula, le rille da. Son dai Sant'Angel che per padrone, nero, nero, nero, bom, bom, bom. E trovato una sardata. La prima volta che fondai il furlo.